La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, allora settimanale di cinema qui su Radio 24, La rosa purpurea nel weekend che significa la vera ripartenza della stagione cinematografica. Se fosse campionato, e guarda un po', siamo anche in coincidenza, sarebbe l'inizio del campionato del cinema 2010-2011. Ben 11 nuovi film escono nelle sale cinematografiche italiane, ce n'è di tutti i gusti, di tutti i tipi, di tutti i livelli, come sempre. Noi cercheremo in questa puntata di dar conto della maggior parte di questi per il vostro rientro in sala in quello che è appunto il primo weekend della nuova stagione. C'è qualche pezzo grosso, qualche incasso importante che ormai è chiaro si sta profilando, come quello di Shrek per esempio, ma non solo. Parleremo anche ovviamente della Mostra del Cinema di Venezia, che sta per partire nella sua 67esima edizione. Sentiamo subito i titoli di testa. Capitanati da Shrek, arrivano nelle sale italiane 11 nuovi film. Nel paese di molto molto lontano, l'orco più simpatico del cinema è un po' depresso e rimpiange i tempi in cui la gente, al suo passaggio, si spaventava. Ha terrorizzato milioni di adolescenti negli anni Ottanta. Ora Freddy Krueger, l'uomo dalle dita di lama e il volto sfigurato, torna nel remake di Nightmare. Arriva finalmente nei cinema London River, il bellissimo film di Rachid Bouchareb, che incantò Berlino 2009. Il dramma di due genitori alla ricerca dei figli di cui non si hanno più notizie dal giorno degli attentati alla metropolitana di Londra. Al via la 67esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Conosciamo da vicino i film, le star e le speranze del Festival della Laguna. E allora, cominciamo invece a conoscere i film, le uscite di questo fine settimana. Come ho detto, sono ben 11 i film che si affacciano alle sale cinematografiche italiane. Noi vogliamo cominciare con un film che è già uscito da un paio di giorni, perché una parte di questi 11 film è in sala da mercoledì, un paio di giorni in anticipo rispetto al fatidico venerdì, che è il giorno delle uscite cinematografiche. Ed è proprio Shrek, il quarto episodio della saga di Shrek. Per esteso il titolo è Shrek e vissero felici e contenti. Come abbiamo sentito nei titoli di testa, troviamo uno Shrek che non definirei sovrappeso, perché quello lo è stato dall'inizio, ma uno Shrek demotivato, ecco. La paternità, i figli, una vita un po' più pantofolaia, gli hanno tolto quello spirito da orco che lo contraddistingueva, e quello spirito comincia a mancargli e se lo va a cercare in una maniera molto molto pericolosa. Noi abbiamo mandato nella bocca dell'orco a vedere Shrek la nostra Chiara Pizzimenti. Poi Shrek baciò la principessa, lei si trasformò in una bellissima orchessa e vissero per sempre felici e contenti. La vita di Shrek è proprio quella raccontata dal gatto con gli stivali. Dopo tante avventure è finalmente nella sua casetta, con moglie, figli e amici. Tutto perfetto, tutto sempre uguale. Troppo uguale per l'orco che, dopo un anno di pannolini da cambiare e forconi da firmare, è ormai una star, non ne può più della routine. A volte vorrei avere solo un giorno per sentirmi un vero orco di nuovo. Ma perché non l'hai detto? Una firmetta e tutti i tuoi problemi spariranno. Per tornare ai bei vecchi tempi, Shrek firma dunque un accordo con Tremotino, un nano dalle parrucche fantasiose e amante delle discoteche, protagonista di una fiaba dei fratelli Grimm, specializzato in contratti magici. Ne aveva già proposto uno ai genitori di Fiona per avere il loro regno in cambio della liberazione della principessa, ma l'intervento di Shrek aveva impedito che firmassero. Ora si prende la sua rivincita sull'orco, lo fa tornare per 24 ore al tempo in cui incuteva terrore, ma si prende un giorno della sua vita, quello in cui è nato. Senza Shrek il mondo è diverso e presto anche lui se ne accorgerà. Fiona ricercata. Che succede? Giochino! Sono io! Non ti ho mai visto prima in vita mia! Sono Shrek, il tuo migliore amico! Oh, mangiami il muso per ultimo e mandagli in gioco la mammina! Nel regno di molto molto lontano, governato da Tremotino, gli orchi sono ricercati da terribili streghe. Ciuchino e Gatto non riconoscono Shrek e soprattutto Fiona, a capo della ribellione, non lo ama. Fiona! Che felicità, ti ho trovato! Dove l'abbiamo scovato questo qua? Stanotte attacchiamo. Benvenuto nella resistenza. In ogni contratto però c'è una clausola rescissoria. In questo caso serve un nuovo bacio di vero amore. Ma prima bisogna combattere. il lieto fine è dietro la porta, un lieto fine che porterà Shrek ad apprezzare la sua vita meravigliosa. La citazione di Frank Capra è assolutamente voluta. La serie, che ha rivoluzionato il modo di intendere le fiabe, nel quarto e pare ultimo capitolo omaggia un classico e si fa sempre più buonista, citando tanto Braveheart, Harry Potter, il gladiatore, Robin Hood e i suoi compari nascosti nella foresta. Passati quasi 10 anni dal primo film, si è un po' persa lungo la strada l'originale scorrettezza, ma era difficile non pensare che l'orco dalle uova d'oro, miliardi di dollari fra incassi in sala, home entertainment e merchandising, non fosse sfruttato fino all'osso, compresa la remunerativa versione in 3D, piacevole ma non indispensabile. Resta il fascino dell'orco. C'è Shrek, ha urlato una bambina appena si è fatto buio in sala, e anche se la storia è un po' troppo complicata per i più piccoli, dal cinema si esce tutti con il sorriso. Mi è piaciuto di più quando si sono baciati la fine. Quando c'è il bambino, quello che gli chiede di fare error. Perché Shrek è andato nel un viaggio nel tempo indietro. Quando gli orchi hanno catturato il cattivo. La fine che si sono baciati e Shrek è ritornato felice e contento della sua vita con la sua famiglia. Sì, mi è piaciuto soprattutto vedere il gatto Ciccio, è stato il pezzo meglio. Fantastico, ci siamo divertiti da matti. Abbiamo riso solo noi grandi, però lo stesso, guarda. Secondo me era forse difficile come trama, ma non credo che loro si siano annoiati comunque, perché la storia in sé reggevano comunque, no? Quindi non c'era bisogno di capire tutto il plot. È più bello normale Shrek o in 3D? In 3D. Perché vengono tutte le scene addosso a te. In 3D si vede un po' più vicino, invece con la TV si vede lontano. Fino alla pubblicità in 3D. È fantastiche le voci dei bambini fuori dal cinema di Bologna, dove la nostra Chiara Pizzimenti ha raccolto questi pareri su Shrek. Insomma, soddisfatti tutti, come abbiamo detto. Forse non è l'episodio migliore della saga, ma non si può sempre avere l'episodio migliore, sarebbe un crescendo rossiniano. È un film comunque molto divertente e come sempre con le caratteristiche base, i personaggi, un minimo di graffio comunque nella loro scrittura, che ha fatto la forza di questa saga di Shrek, che nel primo giorno di programmazione ha incassato 1.100.000 euro circa, solo mercoledì, quindi è partito col botto, non il bottissimo diciamo così, ma comunque molto bene. Quindi c'è da aspettarsi che alla fine del fine settimana, insomma lunedì, lo si trovi primo in classifica con qualche lunghezza di vantaggio. Classifica che per il momento invece è dominata dall'apprendista stregone disneyano, con 1.600.000 nel weekend, 2.700.000 in 5 giorni di programmazione, perché è uscito anche questo film di mercoledì scorso. Secondo posto poi per Sansone, terzo per Toy Story 3, che ha superato i 13 milioni di incasso globale, poi qualcosa di speciale, Pandorum, via via tutti gli altri, ma arriviamo a incassi di livello molto molto modesto. Ma come dicevo, da questo fine settimana le cose cambieranno sicuramente, anche grazie agli altri film che usciranno nelle sale cinematografiche italiane, da Giustizia Privata a Il Rifugio, a un film come Urlo, insomma tanti altri dei quali parleremo fra poco, collegandoci con Boris Sollazzo e facendo una chiacchierata e ascoltando molte clip di questi film. Quindi restate con noi. La Rosa Purpurea. Ed eccoci di nuovo insieme. La Rosa Purpurea continua il viaggio nei film che escono questo fine settimana, i tantissimi film nuovi che arrivano nelle sale, nuovi o seminuovi, perché qualcuno è come produzione datato anche ben più di un anno fa, però sapete, no? Le strade della distribuzione sono infinite e anche molto lente a volte. Siamo in collegamento con Boris Sollazzo. Ciao Boris. Buon pomeriggio Franco e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, abbiamo detto, adesso cerchiamo nel giro di questi prossimi 12-13 minuti di trasmissione di fare un quadro più possibile esaustivo dei film che arrivano nelle sale, quelli che meritano e quelli che meritano meno, così da cercare di fare un po' da guida ai nostri ascoltatori, perché appunto le uscite sono moltissime. Io volevo cominciare, Boris, da Giustizia Privata. Comincerei da qui perché pur con qualche difetto, a mio modo di vedere è, dopo Shrek ovviamente e insieme forse a Nightmare, il film che potremmo trovare più in alto in classifica, facendo un pronostico lunedì, un po' per la presenza di Jamie Foxx, un po' perché comunque è un film che ha una sua, come si può dire, visione legal thriller molto, molto popolare, e poi anche alcuni intrecci, anche se poi forse alla fine, per usare un termine tecnico, un po' svacca, diciamo così, però ha delle cose interessanti nell'intreccio iniziale, nel plot, proprio nell'origine della trama del film. Comincerei subito a sentire una prima clip, ascoltiamo. A che punto sei col caso Shelton? Ho patteggiato. Hanno ucciso una bambina. Un po' di giustizia è meglio di niente. Devi dirlo al padre. Non riesco a capire. Uno dei due, in ogni caso, la farebbe franca. Cosa? La giuria dovrà credere a me. Ho patteggiato, mi dispiace. È così che funziona la giustizia. Abbiamo sentito un avvocato che parla con il suo cliente, alle spalle c'è un terribile omicidio, sconosciuti entrano in casa e rompono nella casa di questo padre di famiglia e uccidono moglie e figlioletta, e da lì parte questo desiderio di giustizia di quest'uomo che si affida al suo avvocato, ma a un certo punto la giustizia, quella con la G minuscola, cioè quella professionale, deve darsi una strada, deve cercare di capire se andare in fondo o se invece accontentarsi di un compromesso che metta in galera, anzi a morte, uno dei due e sostanzialmente però faccia pochi danni all'altro, e questa è una cosa che al nostro protagonista non andrà giù. Questo un po' per essere così concisi il plot di questo film. Dicevamo, Boris, parte come un legal thriller con degli interrogativi morali sulla giustizia, finisce come un po' come un film di James Bond, però anzi forse anche oltre un film di James Bond. Sì, assolutamente, come una spy story, siamo assolutamente d'accordo, e sono d'accordo anche sul fatto che potrebbe avere un'ottima riuscita al botteghino, anche se questo a mio parere non sarebbe un buon termometro per il nostro paese, perché poi più che giustizia privata, questa è una giustizia provata o depravata, nel senso che giustamente ci sono i due angoli della giustizia, Jamie Foxx, avvocato che tiene più ai suoi successi che a portare giustizia, e che tra i due colpevoli sceglie il più debole e non il più colpevole, e Gerard Butler, questo padre di famiglia, protagonista tra l'altro di una straordinaria scena iniziale, a mio parere, una scena iniziale quasi all'altezza di Funny Games, veramente estrema, veramente cattiva, dove perde appunto tutta la famiglia e perde probabilmente anche l'anima, decide di farsi giustizia da solo quando capisce che la vera giustizia non può fare quello che lui vorrebbe e quello che è giusto, però quello che farà lui non è altrettanto giusto. Il problema è proprio, come dicevi tu, con un alto termine tecnico che io apprezzo molto, è che il film svacca più o meno dalla metà, cioè da quando Gerard Butler, da padre disperato, da padre inferocito, colto da una rabbia cieca, diventa Superman. Esatto, lì diventa mette a dura prova la credibilità dello spettatore. Assolutamente, e purtroppo, perché a mio parere i primi 20-25 minuti del film meritavano tutt'altro svolgimento. E questo comunque giustizia privata che appunto comincia comunque anche cinematograficamente bene, in maniera solida, attori importanti, e quindi locandina che potrebbe farsi strada nei cinema di questo fine settimana. Non so ancora quanto affollato, perché ci sono ancora i rientri dalle vacanze, quindi non so quanta gente avrà poi il tempo, disfatte le valigie, risistemata la casa, di andare anche al cinema, ma vedremo. Andiamo avanti per quello che può essere definito lo sconsiglio della settimana, almeno da parte mia. Adesso sentiremo se Boris Sollazzo è d'accordo. Si intitola Letters to Juliet, è un film da non vedere, sentiamo. Partiamo fra due ore e non hai ancora fatto le valigie. Chiudi gli occhi. Buona, vero? Sì. Verona, dove Romeo ha incontrato Giulietta. Sofia, perché sei tu, mia dolce Sofia? C'è un posto dove chi soffre per amore lascia biglietti per chiedere aiuto a Giulietta. È lì che ho scoperto una lettera che ha cambiato la mia vita per sempre. Non sono andata da Lorenzo. Dovevamo incontrarci per scappare insieme. Ti prego, Giulietta, dimmi cosa devo fare. È stata scritta nel 1957. Devo rispondere. Allora, non avvicinatevi al cinema se avete l'indice glicemico troppo alto, perché rischiate qualcosa di grave. No, a parte gli scherzi, film melassa, con tra l'altro due attori, anzi diciamo quattro attori importanti, due della nuova generazione, fra i più apprezzati, come Amanda Seyfried, la protagonista, la ragazza di Mamma Mia, lo ricorderete, e Gael García Bernal dall'altra parte, il giovane Che Guevara. Insomma, davvero un... come dire, un quadro importante a livello di cast. Poi ci sono Vanessa Redgrave e Franco Nero, soprattutto Vanessa Redgrave con la sua grazia, con la sua classe. Però un film che si risolve in un enorme spot. La storia proprio in breve, avete sentito all'inizio, i due sposini, o quasi sposini, presposini, perché si devono ancora sposare ma fanno la luna di miele. Vanno a farla a Verona e al balcone di Giulietta la ragazza, che è una giovane giornalista di necrologi americana, scopre dietro un mattone che, guarda caso, proprio in quel momento viene via dal muro della casa di Giulietta a Verona, una lettera di 50 anni prima nascosta e mai inviata a un amore che doveva essere e chiaramente non è stato. E allora lei si mette in mente di rimettere insieme questi due personaggi e di rispondere a questa lettera e di cercare di aiutarli a ritrovarsi in un'Italia incantata, in una Toscana da cartolina, con i cipressi, le strade che sembrano quelle della pubblicità delle automobili o dei biscotti della prima colazione. Allora, questo è un po' l'impianto visivo, scenico, eccetera. La domanda che ti faccio, Boris, è, non vuole essere cattiva, è proprio curiosa, ma perché si fanno ancora così certi film? Il plot ci poteva anche stare, questa che ritrova la lettera, scrive, cerca di rimettere insieme i cocci di un amore che non c'è stato. Film sentimentale, poteva essere. Deve per forza scadere nel melassa? Guarda, te lo dico con un titolo che probabilmente ti dirà poco o niente, ai nostri ascoltatori, che è Under the Tuscan Sun, un film con Raoul Bova e Diane Lane. Qui uscì in poche copie e non ebbe successo. In America ebbe un successo clamoroso, un bel ragazzo italiano, una donna molto bella, affascinante come Diane Lane, una toscana da cartolina. Da lì è cominciata una sorta di nouvelle vague trash italiana, in cui potremmo mettere pure il recente La Fontana dell'Amore, no? Dove si è avuto a Piazza della Fontanella Borghese, si è avuto il bell'ardire di mettere una fontana finta, e questo è diventato un genere clamorosamente di successo in America e clamorosamente brutto in tutto il resto del mondo. E questo ne è uno degli esempi peggiori, anche perché prende due delle promesse migliori della recitazione, che sono Amanda Seyfried e Gael García Bernal, e li tratta malissimo. Tra l'altro, appunto, tutti e due mi sembrano in una fase galante della loro pur giovane carriera. Vanessa Redgrave e Franco Nero, devo dire, fanno veramente male, nel senso che una carriera meravigliosa come la loro, maltrattate in un film con le Letters to Juliet, non se lo meritavano, ecco. Sì, no, c'è Gael García Bernal, che in certi momenti ti verrebbe voglia di mettergli le mani addosso, perché è un invasato cuoco, giovane chef che è arrivato in Italia, sembra un bambino nel paese della marmellata, no? E però lo fa con sguardi, con enfasi che sono totalmente fuori luogo, e beh, insomma, già cominci a non tifare per lui, diciamo, subito dall'inizio. Don Cruz di Verona, esatto, sembra, no? Esatto, no. Cose, davvero, davvero dimenticabile. E vabbè, come hai detto tu, la cosa più preoccupante è ed è abbastanza vera, che dopo il successo di Mamma Mia e dopo i successi di Gael García Bernal all'inizio della sua carriera, i due non hanno visto il loro grafico salire in termini di prestazioni, non tanto magari personalmente, quanto di scelte proprio di copioni. E lì, chissà, ci sarebbe un po' da interrogarsi. Ma noi andiamo avanti perché il tempo corre e dobbiamo raccontarvi tanti film. E vogliamo arrivare al primo di questi film, forse a quello più importante in senso etico, in senso di necessità, anche se in Italia arriva praticamente due anni dopo essere stato visto in prima mondiale a Berlino. Stiamo parlando di London River, luglio 2005, le bombe di Londra. Esplodono le bombe sui mezzi pubblici, metropolitana, ricorderete, numerose vittime. Questo è il background del film di Rachid Bouchareb. La signora Sommers, che vive in un paesino della Manica, apprende la notizia dalla televisione e non trova la figlia. Usman, che è un africano che lavora a Londra, non sente notizie di suo figlio, che non vede tra l'altro da quando era piccolo. Insomma, questi due mondi, uno musulmano, uno cristiano, in questa Londra ferita a morte dagli attentati, cercano di avvicinarsi. Ci sono due genitori di estrazione diversa, di religione diversa, che cercano due figli che non li trovano, sullo sfondo di una guerra di religione. E questa è la forza del film di Rachid Bouchareb. Io voglio farvi sentire subito una clip di questo film e poi ne parliamo con Boris. Tutto intorno gruppi di londinesi attoniti, immobili agli angoli delle strade che continuano a chiedersi come è potuto accadere. Chi può avere mai fatto una cosa del genere? Oh, ecco le testimonianze di alcuni dei sopravvissuti. La polizia, per favore. Credo che mia figlia sia scomparsa. Anche lui sta cercando suo figlio. Ali non abita più qui. Ho incontrato questo africano che ha una fotografia di lei alla moschea. I ragazzi si conoscevano. Ha ancora imprecisato il numero dei morti. Non so che cosa stia succedendo. Sta imparando l'arabo. Ho tanta paura. Un film alla Ken Loach in un certo senso, per lo sguardo che c'è sui personaggi, per la sua capacità di entrare nella gente comune. Firmato Rashid Bouchareb, che continua, Boris, a inseguire un'idea di cinema, di dialogo, di cinema che faccia dialogare le culture. Sì, devo dire, senza dare un'accezione negativa al termine, più un'ideologia di cinema. Lui fa un cinema fortemente ideologico, penso a Ursula Le Guin, che ha militarizzato Cannes, ha creato grossi problemi, c'erano addirittura carri armati in Costa Azzurra, insomma, perché si parlava dell'imperialismo francese. In questo caso però forse lui è il film in cui fa lo sforzo maggiore per cercare di far incontrare le due culture. Trova due attori straordinari, a mio parere: Brenda Bledin, che nella parte della donna inglese della middle class, magari un po' ottusa, un po' impaurita dal mondo circostanza, è straordinaria, e poi questo Sotiqui Kouyaté, che vinse a Berlino la migliore interpretazione maschile, che purtroppo ci ha lasciato pochi mesi fa a giugno, è questo Ousmane ieratico, meraviglioso, straordinario. Ecco, devo dire che forse la grande forza è questa coppia di attori. Forse anche la debolezza, però, perché c'è un po' troppo stereotipo: la donna bianca è un po' ottusa, l'uomo musulmano nero è invece molto saggio, non sbaglia mai una parola, non sbaglia mai una scelta, la aspetta finché lei non arriverà con il dolore e con anche la rabbia a capire che il suo nemico non è Ousmane, ma il suo nemico è il mondo che ha creato questo conflitto di civiltà. La cosa bellissima è anche il fatto che i due si incontrano, capiscono di essere i genitori dei reciproci figli che avevano qualcosa in comune, evidentemente, ma sono i figli che non si trovano, e rimane questa, cioè i genitori si incontrano e dei figli non c'è traccia, almeno fino a un certo punto. Questa è un'altra, secondo me, soluzione narrativa molto, molto interessante. Andiamo avanti, abbiamo un altro film di cui vogliamo riferirvi, è un'altra delle scelte di qualità di questo fine settimana. Si intitola semplicemente Urlo e racconta un processo molto particolare che sconvolse un po' l'America a metà degli anni 50, quando il giovane allora poeta Allen Ginsberg recitò per la prima volta in pubblico questo che diventò il manifesto poetico della cultura beat americana, appunto Hall, e poi venne processato per la scurrilità, insomma, per i temi di questo poema. Ascoltiamo la clip. Perché non mi racconta come hai iniziato a scrivere poesie? Ho iniziato a scrivere poesie perché mi ero innamorato e volevo esprimere i miei sentimenti. Urlo. Ho visto le migliori menti della mia generazione distrutte da pazzia, affamate, isteriche, nude. Ritiene che Urlo, il poema di Ginsberg, sia un testo osceno? Sì. Santo, santo, santo! Se valore letterario c'è, non è di grande spessore. Santo Kerouac, santo Cassidy, che pompavano ed erano pompati da quei serafini umani. È come sguazzare nel fango quando leggi quella roba. Capisce il senso di pompavano ed erano pompati. Boris, roba tosta per l'epoca, Meraviglioso, meraviglioso. Quel momento è stato il più alto momento della letteratura beat, oltre ad essere stato il primo e il più forte. E devo dire, io sono innamorato anche di questo film, proprio con tutti i suoi difetti, anche come la letteratura beat. Perché comunque Rob Epstein, che è un premio Oscar, un documentarista premio Oscar, racconta, ritrae quel momento, quella rabbia giovane che esplodeva con una forza, con una poesia straordinaria, riuscendo ad alternare parte documentaria, parte di fiction, attori straordinari, Jon Hamm e David Strathairn, non a caso icone moderne di quegli anni 50 e 60. Jon Hamm fa Mad Men, i pubblicitari degli anni 50 e 60, David Strathairn lo ricordiamo in Good Night and Good Luck, nel McCartista, Clooney. Quindi devo dire, veramente un film secondo me straordinario. Straordinaria anche l'idea dell'animazione, di questi graphic novelist che un po' psichedelici, un po' beat, James Franco, bravissimo, attore ancora sottovalutato rispetto al suo talento. Ecco, abbiamo detto prima dello sconsiglio della settimana, per una volta non passo per essere il solito stroncatore, questo è il consiglio della settimana, andatelo a vedere. E allora, Urlo, prodotto tra l'altro da Gus Van Sant, che continua il suo viaggio un po' nel background, anche dopo Milk, di una certa cultura di San Francisco. Allora, noi a questo punto diamo la linea alla regia, chiedo a Boris Sollazzo di restare con noi, perché fra un poco lo risentiremo per fare una breve presentazione e valutazione di quello che potrà essere il Festival di Venezia. Prima però linea alla regia, fra poco torniamo e parleremo di Nightmare. La rosa purpurea. Ed eccoci ancora insieme, allora, La Rosa Purpurea, a terza parte del nostro programma. Noi abbiamo un altro film di cui vogliamo accennarvi. Vi dico anche che escono anche Indovina chi sposa Sally, con Sally Hawkins e Tom Riley. Esce anche North Face, un film un po' montanaro, la mitica, mitico ghiacciaio dell'Eiger protagonista, La strategia degli affetti di Dodo Fiori con Paolo Sassanelli. Insomma, sono tante, davvero troppe per essere raccontate tutte in una puntata. Le uscite del weekend, ma c'è Nightmare e qui non c'è niente da fare, perché adesso sentiremo da Manlio Gomarasca, che oltre che un amico di questa trasmissione è anche un grande esperto di horror, quanto vale questo film. Però certo la notizia, come si suol dire, c'è, perché ritorna un cult, forse posso dire anche il più grande cult degli anni Ottanta per quanto riguarda il cinema horror, che ha con Freddy Krueger creato uno dei mostri più mostruosi di tutti i tempi. Insomma, bisogna dargli lo spazio che merita. Allora Manlio, benvenuto alla Rosa Purpurea, ricordo direttore di Notturno, tra l'altro, rivista che di queste cose, insomma, in queste cose, in questo cinema ci sguazza alla grande. Manlio, questo Nightmare, allora raccontaci un po', vale la pena, è paragonabile o è lesa maestà? Guarda, è assolutamente lesa maestà, oddio, non voglio essere così drastico, però io un po' di problemini col film ce l'ho. Nel senso che, vabbè, si sa, in America c'è ormai questa moda dei remake e va anche bene nel momento in cui reinventano l'originale, hanno qualcosa in più da dire, come è successo ad esempio con L'alba dei morti viventi rispetto a Zombie. Qui purtroppo ci troviamo di fronte a un film che ha una struttura, un personaggio talmente forti che alla fine si è rifatto esattamente la stessa cosa, cambiando l'attore, cambiando qualche intenzione, ma senza realmente avere un'esigenza di fondo se non quella del marketing. Ecco, la storia è analoga, cioè ricordiamola, in breve, questo mostro che arriva a colpire nei sogni, quindi non ti puoi addormentare sostanzialmente. Anzi, a questo proposito, prima di chiederti appunto una tuo parere, vorrei far sentire una clip, perché c'è proprio questo ritornello del non dormire, sentiamo. Kruger, vieni fuori, bastardo pervertito! Apri questa porta, Kruger! Non ho fatto niente, che cosa vuoi da me? Faccio dei sogni in cui c'è un uomo tutto bruciato. Non ti devi addormentare. Non ti devi addormentare, perché Freddy Krueger colpisce nel sonno e nei sogni, che chiaramente diventano incubi, ma colpisce davvero. Dicevo, Manlio, storia praticamente uguale, c'è il remake puro o ci sono variazioni, pesi e spazi e tempi diversi? Guarda, la storia è praticamente quella. L'operazione che si è fatta è stata di cambiare qualche piccolo elemento, tipo invece che fargli mangiare la bistecca gli facciamo mangiare la pasta asciutta, ma fondamentalmente le scene importanti che dovevano essere ci sono, la trama segue bene o male gli stessi binari. C'era solo un colpo di genio molto interessante, cioè quello di insinuare nello spettatore il dubbio che forse Freddy Krueger, l'assassino di bambini, non fosse in realtà innocente, fosse stato ucciso per sbaglio. Ecco, quello poteva essere l'elemento che poteva rivalutare o far rileggere in maniera diversa il remake. In realtà poi alla fine gli americani sono rientrati su, diciamo, delle tematiche più sicure. L'hanno un po' buttata via questa cosa. In effetti la cosa che mi sembrava interessante era questo cercare di dare una sorta di scusante, diciamo così, storica al personaggio di Freddy Krueger, cosa che nella saga, se non ricordo male, ma vado a memoria, veniva fuori in un certo momento in qualcuno degli episodi successivi, però qui forse poteva essere un po' più, ecco, un elemento che dava un peso, un bilanciamento diverso. Il Freddy Krueger scelto rispetto al mitico Robert Englund? Ma sai, lì è quello che dicevo prima, ti scontri con un attore talmente icona di per sé che va bene, è un uomo con la faccia ustionata, un po' di effetti digitali in più per mascherare e rendere le ustioni più credibili, ma poco altro. Insomma, la cosa che mi sembrava veramente interessante da telepremessa era proprio questo, cioè rendere Freddy Krueger un personaggio negativo quanto gli altri, se effettivamente fosse stato innocente e ucciso per sbaglio. Purtroppo in questa direzione non si è voluto andare, si è voluto seguire esattamente il copione di Wes Craven, e la cosa per me più grave, vabbè, io faccio notturno quindi mi capirete, è che anche le scene di morte non sono all'altezza dei precedenti. La scena in cui nel primo, nell'originale, Johnny Depp veniva frullato dal letto rimane sicuramente migliore di qualsiasi scena di omicidio raccontata nel nuovo Nightmare. Beh, insomma, è questo allora il parere di Manlio Gomarasca, direttore di Notturno, su Nightmare il remake. Dicono che da qui potrebbe nascere una nuova saga, cioè che l'idea è quella di far nascere una nuova saga. Chissà, vedremo un po' anche quale sarà l'accoglienza del pubblico a livello internazionale, poi alla fine si tireranno un po' le somme. Allora, noi a questo punto abbiamo concluso con la grande carrellata delle novità al cinema. Abbiamo parlato di 6 film e, come avete visto, ce ne sono tanti altri che arrivano in sala. Però, siccome fra pochi giorni, il 1 settembre, comincia il Festival di Venezia, la 67esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, noi vogliamo chiedere ai nostri ospiti di rimanere con noi, tanto Manlio Gomarasca quanto Boris Sollazzo, che ovviamente sono giornalisti esperti di cinema a tutto tondo, e provare un po' a capire cosa aspettarsi da questa edizione veneziana. Io comincerei, Boris, con una così una provocazione in un certo senso. Ho visto io The American, di cui parleremo nelle prossime settimane quando uscirà, e ho capito perché Marco Müller non l'ha voluto a Venezia. Ah, anch'io, caro Franco, l'ho capito benissimo, ma era difficile volerlo, insomma, non sembra un film di Corbin, ecco, non sembra avere neanche la sensibilità estetica di un regista così bravo, di un fotografo così bravo. È davvero un film inspiegabile, però insomma, di esclusioni eccellenti ce ne sono state, oltre a questa, pensiamo anche a quella di Pupi Avati, Una sconfinata giovinezza, che ha creato tante polemiche, alcuni che ci aspettavamo non sono arrivati, come Malik, che chiaramente con i tempi che ha si era promesso a Cannes e non è andato, si era promesso a Venezia e non è andato, e chissà quanto continuerà ancora questa cosa, visto che fa un film ogni 10 anni. E per il resto è una grande scorpacciata, mi sembra, di film italiani, proprio anche direi bulimica in qualche modo, e qualche grande maestro, forse però meno di quelli che ci aspettavamo. In qualche modo ci sono anche molti outsider, grandi outsider come Julia Schnabel, Sofia Coppola, però devo dire che forse mi aspettavo di più. È anche vero che di fronte a un Cannes molto debole, Venezia ha l'occasione per tirare un buon calcio di rigore quest'anno. Ecco, hai detto, voglio associarmi a un po', non ho visto il film, quindi chiaramente le scelte della selezione veneziana saranno state sicuramente motivate, però sono dispiaciuto ugualmente dell'assenza di Pupi Avati da Venezia. Adesso poi loro lo volevano fuori concorso, lui voleva andare in concorso, ma insomma, perché Una sconfinata giovinezza, sulla carta, ripeto, non l'ho ancora visto ovviamente, è un film che avrebbe potuto forse essere la cosa migliore di Avati degli ultimi anni, in un viaggio che per una volta prendeva anche una tonalità molto drammatica, raccontando uno dei mali, che è quello degli anziani, della decadenza senile, e quindi poteva essere un tema anche forte e poco visitato, almeno in tempi recenti, dal cinema italiano. Invece questa volta però Avati è stato lasciato fuori da questo giro, ma chiaramente poi ci sarà la sala, come sempre, a decretare cosa vale questo film. Manlio Gomarasca, che Venezia vedremo secondo te? Ma, Venezia secondo me è più o meno sempre agli standard del solito, cioè Marco Müller ha cercato di riempire il calderone con tutto quello che aveva a disposizione, tradendo come sempre un amore, una passione per il genere. Mi sembra che anche quest'anno ci siano parecchi di film di genere assolutamente non veneziani in senso classico, incominciando da Macete, no? Fin d'apertura di Mezzanotte, di Rodriguez, e poi tanti altri. Addirittura, ecco, a me spiace che siano stati esclusi all'ultimo momento per motivi indipendenti dai selezionatori film come il nuovo Carpenter piuttosto che il nuovo Landis. Però insomma, una Venezia ricca di prodotti di genere, soprattutto per quanto riguarda l'Oriente. E abbiamo un'invasione di film in 3D, 3 film di Takashi Miike insieme. Mi sembra che insomma si tenti sempre di cercare di analizzare il cinema in maniera trasversale, passando dagli autori a prodotti un pochino più sperimentali. Ecco, forse manca una ricerca maggiore all'interno dei giovani, degli indipendenti. Si gioca comunque con attori ormai di una certa fama consolidata, però insomma mi sembra interessante. Io Carpenter e Landis gli darei sempre una wild card, li porterei comunque qualsiasi cosa facciano, però insomma questo lo staremo a vedere. Allora, grazie a Manlio Gomarasca, direttore di Notturno, grazie a Boris Sollazzo, il nostro stroncatore, si è definito lui, no, comunque il nostro collaboratore della Rosa Purpurea, per averci raccontato film già in sala e film che vedremo nei prossimi 10 giorni, dall'1 all'11 settembre per la precisione, al Lido. Ciao e a risentirci. Ciao. Ciao Franco. E allora, esaurita questa parentesi, prima di dare la linea alla regia, io voglio darvi una notizia che è molto divertente, perché è stato decretato il film più brutto di tutti i tempi. Ed è un film italiano. Il film di cinema italiano, vedete, qualcosa vince, no? Beh, scherzi a parte. Si tratta di Troll 2, che sta spopolando su internet dopo essere stato votato dalla rete come il più brutto dei peggiori film della storia. Beyond Horrible, ovvero Al di là del bruttissimo, il giudizio più ricorrente degli internauti che con la loro stroncatura lo hanno fatto diventare un cult. Troll 2, regia di Claudio Fragasso e sceneggiatura di Rossella Drudi, autori della saga Palermo-Milano, ricorderete, uscì 20 anni fa negli Stati Uniti senza lasciare grandi tracce, al punto che non è mai arrivato in Italia. Ma il film, un'improbabile storia con i folletti girata nello Utah, è stato ripescato negli USA negli anni scorsi dagli amanti del genere e ora è assurto a grande fama proprio in virtù della sua bruttezza e al tantam di internet. Su YouTube sono oltre 500.000 i contatti per i trailer del film, e così gli autori starebbero già pensando a un sequel. Ecco, questa è una via del cinema molto particolare. Risentiamo come vanno le cose sulle strade, fra poco torniamo perché c'è da parlare anche delle prime novità della nuova stagione in DVD. La Rosa Purpurea. Ed eccoci ancora insieme, la quarta parte della Rosa Purpurea. Noi adesso vogliamo parlarvi di cinema da vedere in casa o in televisione o in DVD, e cominciamo parlando di cinema in TV, perché la settimana che sta per cominciare è una settimana ricca anche per quanto riguarda le proposte televisive. Noi ci siamo soffermati su un film molto interessante che ebbe grande successo quando venne presentato in prima mondiale al Festival di Roma. Si intitola Juno e viene trasmesso in prima TV da Canale 5 proprio la prossima settimana, esattamente lunedì. Ce ne parla Claudio Bartolini. Ciao Franco, ciao a tutti gli amici di Radio 24 dalla redazione di Fin TV. Il film che vi proponiamo questa settimana è Juno, che andrà in onda su Canale 5 alle 21:20, quindi prima serata, lunedì 30 agosto. Juno è un film finto indipendente, nel senso che attinge nel cast a Hollywood, quindi alle major, abbiamo attori importanti che ricoprono soprattutto i ruoli secondari, vale a dire Jennifer Garner, Jason Bateman, Ellen Page e la regia di Jason Reitman. Scritto da Diablo Cody, che è stata in passato spogliarellista e blogger di successo, il film è la storia di una ragazzina che, incinta, decide di non tenere il proprio figlio e di darlo in affidamento a due genitori adottivi. Questi genitori, apparentemente perfetti e appartenenti alla società bene, in realtà nascondono più di un difetto, più di un lato oscuro, che progressivamente vengono a galla e con i quali Juno arriva poi a scontrarsi. Galleria di personaggi macchiettistici, divertenti. Questa pellicola è un giusto mix tra il dramma di una ragazzina come Juno, quindi reso in chiave piuttosto seria, e invece l'umorismo nei toni e nell'abbigliamento, che stempera notevolmente i toni drammatici. Nel rimandarvi a settimana prossima, vi mandiamo un saluto e una buona fine estate in compagnia di Juno. E allora grazie a Claudio Bartolini. Ricordo ancora Juno, lunedì 30 agosto, Canale 5, ore 21:20, la sua prima TV in chiaro. E allora, dal cinema in TV ai DVD, perché, come dicevo, la nuova stagione è praticamente partita anche per l'home video. Quando parliamo di DVD ormai parliamo immancabilmente anche di Blu-ray, e quindi siamo già in collegamento con il nostro Claudio Pofi, che saluto. Ciao Claudio! Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Eccoci qua. Allora, dicevamo, inizia la stagione anche per l'home video. Tra l'altro c'è una notizia, così mi viene in mente mentre parlo di home video, piuttosto importante a livello industry, diciamo così. Pare che in America stia andando verso il fallimento la catena Blockbuster. Questa è una notizia che è rimbalzata sui giornali proprio nelle ultime ore, ed è una notizia che, come dire, ha a che fare, forse poi riusciremo anche a fare degli approfondimenti su questo, ha a che fare proprio col sistema di distribuzione, con la pirateria, con le tecnologie, con quello che oggi internet rappresenta per comprarsi un video, e pensate, in America anche per noleggiarlo. Ci sono un paio di siti americani che ti portano a casa il film dopo poche ore noleggiandolo da internet. Ecco, queste sono tutte cose che probabilmente hanno decretato questo tipo di crisi. Insomma, ne parleremo, ma adesso invece concentriamoci sui film che trovate in videoteca proprio in questi giorni, cominciando, Claudio, con uno dei film più attesi della scorsa settimana, un poliziotto texano e un suo amico, diciamo così, che si trovano e si scoprono profondamente innamorati. Si tratta di Colpo di fulmine, I Love You Philip Morris. È un film che mette insieme un cast eccezionale come quello formato da Jim Carrey e Ewan McGregor. Sentiamo la clip. Compravo tutto quello che catturava il mio sguardo, vestiti, gioielli, fate voi, io agguantavo tutto. Ero quello a cui ognuno telefonava per sapere quali erano i nuovi posti fichi, club, bar, ristoranti, li conoscevo tutti. E a volte scendevo negli alberghi il weekend solo perché si diceva che avevano dei bagni favolosi o un servizio in camera da sogno o dei fattorini strepitosi. Ma non mi ci è voluto molto per capire una cosa che non mi era mai passata per la mente. In effetti nessuno ne parla mai, però... Contanti o carta? Essere gay è veramente costoso. Steven Russell conduce una normalissima vita in un paese di provincia, un poliziotto, suona l'organo nella chiesa del paese ed è sposato. Un incidente stradale sarà la svolta. Steven in realtà è gay, deciderà di vivere una vita senza freni prendendo la via della truffa e della frode, e arrestato in carcere troverà l'amore nel sensibile Philip Morris, e per questo sarà disposto a inventarsi l'impossibile pur di vivere libero accanto all'uomo della sua vita. Tratto da una storia vera che ha a dir poco dell'incredibile, una agrodolce commedia diretta a quattro mani da Glenn Ficarra e John Ricua, che vede nel ruolo appunto di Steven Russell un incredibile Jim Carrey. Da Lucky Red, l'uscita in DVD ma soprattutto Blu-ray, due ottimi prodotti, da privilegiarsi il Blu-ray per godersi una visione con qualità cinema. Oltre alle due tracce Dolby Digital in italiano e inglese, appunto sul Blu-ray è presente una DTS ad alta risoluzione in italiano di eccellente fattura. Tra gli extra segnalo 30 minuti dell'incontro a Cannes in compagnia dei due registi, degli attori principali, ma soprattutto del produttore Luc Besson. Andiamo invece a un film di genere catastrofista, tornando indietro di una buona dozzina d'anni. Il film era Dante's Peak, con Pierce Brosnan protagonista, un vulcanologo che deve vedersela con l'eruzione, i segni di risveglio, insomma, di un vulcano che da tempo dormiva. Sentiamo la clip. Le scosse si avvicinano tra loro. Una è di 2,4. Anche i livelli dei gas stanno salendo. Non è un buon segno, non è affatto Guarda un buon segno. È il massimo che si può fare. Sì, signore. D'accordo, la ringrazio, l'aspettiamo. La Guardia Nazionale non può venire prima di domani. Secondo te quanto tempo abbiamo, Harry? Non lo so, è presto per dirlo. Anomalie nell'attività sismica portano il ricercatore Harry Dalton presso Dante's Peak, questa cittadina nel nord degli Stati Uniti. I dati raccolti, i drammatici eventi che si susseguono a breve distanza, sono l'evidente segnale dell'eruzione del vulcano ormai imminente e non molto distante dal paese. Fallito il piano di evacuazione, per Dalton inizia una corsa contro il tempo per raggiungere una baita isolata a ridosso del vulcano e salvare i figli del sindaco. Dal regista australiano Roger Donaldson, autore sicuramente di opere ben più notevoli come 13 giorni, Il Bounty e Senza via di scampo, questo blockbuster catastrofico del 97 arriva in Blu-ray da Universal con buona qualità. Diciamo che la pellicola a tratti palesa alcuni difetti fisici, ma comunque il risultato è superiore a quello del DVD. C'è una traccia DTS in italiano e una DTS ad alta risoluzione in inglese, purtroppo nessun extra. E allora chiudiamo con un film che ci riporta ai furori del gruppo che inventò o reinventò, comunque sicuramente fece esplodere, il punk. 1977, Londra, Sid Vicious dei Sex Pistols, che incontra una giovane americana dedita all'eroina, sono i protagonisti di Sid e Nancy. Gli amplificatori devono sfondare le orecchie. A che serve tutta questa stampa? Dove credi di andare, Sidney? Oh, c'è la nostra mamma. Ehi, mammina, dammi i soldini. Senti, io sono il vostro agente. Penso a tutto quello che vi serve. Droga, pannolini, pappa. Allora a che cazzo ti servono i soldi, me lo dici? Non so, comprare roba per la casuccia, magari. Sarà, ma spiegami un po' cosa sono questi segni sul braccio. Zanzaroni, Marco. Lascialo stare, smettila. Non spappolarmi le palle. Questo porco è un fottuto sadico. E non ti dà un soldo. Secondo bassista della band dei Sex Pistols, Sid Vicious incontra nella Londra degli anni 70 Nancy Spungen, gruppo americana eroinomane che si legherà a lui sentimentalmente. Sid è maldestro con il basso, senza alcuna direzione nella vita. Dopo lo scioglimento del gruppo si ritroverà nuovamente con Nancy, che viene trovata accoltellata a New York in circostanze mai chiarite, e successivamente Sid morirà per overdose a soli 21 anni. Nel ruolo di Sid Vicious un giovane incredibile Gary Oldman, in questo viscerale biopic con cui il regista Alex Cox esordì nel 1986. Da Universal il DVD di ottima qualità video offre due tracce Dolby Digital, due canali, entrambi originali dell'epoca. Il consiglio è di ascoltare soprattutto l'originale inglese per cogliere diverse sfumature. Purtroppo nessun extra, ma ricordo agli appassionati che all'estero è recuperabile almeno un'edizione speciale ricca di supplementi. E allora grazie Claudio Pofi per i consigli in DVD, appuntamento la prossima settimana. Ciao, un saluto. E allora noi abbiamo praticamente chiuso la nostra puntata, ma abbiamo ancora lo spazio per un gran finale, potremmo dire, il finale col botto, nel senso che io ho voluto tenere questa notizia alla fine perché è stata abbastanza tra il comico e l'impressionante. Sapete Gérard Depardieu, Tengo Gore italiano, quello che vedete spesso nelle pubblicità, ha attaccato Juliette Binoche in una maniera pazzesca che voglio riportarvi. Ha sparato a zero sull'attrice in un'intervista a un settimanale austriaco. Insomma, c'è la morte con Juliette Binoche, chissà perché, dicendo dunque quale segreto nasconde, si chiede Depardieu. Vorrei sapere perché da tanti anni gode di così tanta stima. Non ha niente, assolutamente niente, riporta questo sito. In paragone Isabella Gianni, con la quale ha recentemente girato in Mammut, è super, anche se completamente persa. O anche Fanny Ardant è grandiosa, estremamente impressionante, dice Gérard Depardieu. A quel punto il giornalista deve avere provato a ricordargli i successi della Binoche, premio a Cannes come miglior attrice per Coppia conforme, un Oscar per Il paziente inglese, niente da fare. Gérard ha insistito: Binoche cosa aveva già quando ha girato L'Examen du Pont Neuf? Léo Carà ha avuto bisogno di 6 anni per girare il suo film con Binoche, e alla fine non era solo un film ma solo un pezzo di Beh, insomma, Tengo Gore italiano, però tiene pure, come dire, una certa avversione per Juliette Binoche. Staremo a vedere per quale motivo Gérard Depardieu, chissà mai se verrà fuori, se l'è presa così tanto con la sua collega popolare transalpina. Grazie per averci seguito. Con questo noi chiudiamo la puntata della Rosa Purpura. Saremo in onda la prossima settimana con un corposo spazio dedicato alla Mostra del Cinema di Venezia. Grazie per averci seguito. Un saluto da Franco D'Assisi.